Professor Gerardi se ne va, io resto, ma questa è l'unica volta in cui io forse posso intervenire perché gli altri temi sono assolutamente fuori dalle mie competenze. Qui ho qualche interesse specifico. Qui invece. Sei maestro? No. E in questo, proprio in questo ambito, innanzitutto devo dire che ho apprezzato molto quello che ha detto il Lorenzo e lo accetto in pieno, ecco, non è che possa obiettare, io che mi senta di obiettare qualche cosa a quello che lui ha detto. Piuttosto quello che vorrei fare è di sollevare alcune questioni che sono aggiuntive rispetto a quello che è stato detto e che a mio parere permettono, anzi sono richieste, perché quello che è stato detto non resti a livello, come dire, postulatorio, a livello di affermazione. È ovvio che lui non poteva neppure fondare, perché anche il tempo si esige per le fondazioni e per le giustificazioni, ma proprio in questa direzione, cioè del superamento di quello che potrebbe essere la dimensione soltanto retorica di questo discorso, se fosse soltanto proposto e affermato, ecco, io sollecito un po' di attenzione nella direzione di quel cammino, di quel pensare a lungo termine. E anzitutto il primo punto, molto interessante, per me convincentissimo, detto velocemente, la necessità di superare il dualismo e la contrapposizione tra soggetto e oggetto. Questo, sappiamo bene, esige un ripensamento abbastanza radicale della nostra tradizione filosofica, la quale, quando giunge con Cartesio ad esprimere radicalmente questa opposizione, in realtà matura germi che fin dal suo inizio forse sono già presenti, forse meno accentuati questi germi proprio nel concetto greco di physis, di natura. E allora sarebbe interessante proprio vedere se non sia accaduto in quel processo, che è stato velocemente ma abbastanza puntualmente lumeggiato, se non sia accaduto che già proprio il concetto greco di physis non sia stato costretto in questa contrapposizione tra soggetto e oggetto nel seguito del pensiero cristiano, e specificamente, per dire, quello che a mio parere ne è più libero, in San Tommaso. Proprio le formulazioni che sono state ricordate mi pare che rivelino già queste venature molto profonde, molto gravi, nelle quali minaccia proprio di naufragare il concetto originario greco di natura in quelle sue valenze che permettono appunto di distaccarlo dalla deriva oggettivistica e reificante della natura medesima. E per questo io esiterei a dire, per esempio, l'uomo è parte della natura. È una formula che hai detto, vero? Ma certamente non era questo il suo tema, ma proprio per questo queste formule dovrebbero essere più accuratamente valutate. Ebbene, questo discorso, che già appunto diventa problematico rispetto alla greca physis, e poi diventa problematicissimo rispetto al mondo biblico, al mondo ebraico. E questo è stato detto molto bene, quello splendido Salmo ottavo, di cui molto velocemente, ma ha detto anche, Gerardi ha detto anche proprio gli snodi essenziali, no? Mi pare che sia molto indicativo da questo punto di vista. Dunque, proprio in quella prospettiva di quel Salmo non è possibile pensare, ad esempio, il rapporto tra Dio e l'uomo, il che Elohim, che ha citato, nel senso che l'uomo è inferiore a Dio, perché, che so io, è minore di Dio, è più piccolo di Dio, è più imperfetto di Dio. Non è questo il discorso, mi pare. Così come non è questo il discorso che si può poi proporre nel rapporto tra l'uomo e il mondo che Dio gli affida, facendolo partecipe del suo medesimo originario, creativo rapporto, della sua signoria. Dunque bisogna pensare diversamente, in maniera radicale. Come dire, ecco, per usare i termini di Gerardi, la signoria che ho in termini di rapporto personale, dunque un rapporto relazionale non oggettivante. È questo che dovrebbe essere lo schema interpretativo della creazione e dei rapporti istituiti dalla creazione. Ma attenzione, ecco il pericolo che qui corriamo, e che proprio all'aver negato la dimensione oggettivante di questo rapporto facilmente ci induce a spostare tutto sull'altro polo, quello del rapporto soggettivo. Ed è qui che non funziona più. Che va superato è il rapporto rapporto dei due termini e i due termini che sono in quel rapporto, quindi la necessità di costruire categorie diverse, che mi sembra questo il punto nodale, il punto essenziale di tutto il discorso. Ecco, se noi ci mettiamo in questa prospettiva, ecco, certamente noi possiamo introdurre poi il discorso, no, possiamo, scusate, ritiro tutto, dobbiamo introdurre il discorso cristologico e trinitario, ma qui con un'attenzione, ancora una volta, la minaccia del nostro discorso tradizionale, qual è? È quella, da un lato, di fare del discorso trinitario semplicemente l'affermazione di una esteriorità della Trinità o del Cristo al reale, rispetto al reale, l'affermazione, l'esigenza della trascendenza di Dio interpretata nel modulo della esteriorità non spiega proprio nulla. L'altro versante qual è? È proprio quello di un evoluzionismo evolutivo di tipo cristico, di tipo trinitario. Ecco, d'accordo, questi sono i due pericoli. Come possiamo però procedere in questa direzione? Certamente superando ad esempio il concetto di creazione, la prospettiva della creazione nella direzione della causalità. Questo, alcune indicazioni sono state date abbastanza chiare, ma mi pare che qui si debba pensare in maniera ancora più profonda. Cosa vuol dire non pensare la causalità? E significa per esempio riproporre il discorso, è stato usato questo termine, dell'autocostituzione dell'uomo. Non possiamo pensare che un pensiero crei un oggetto, così come non possiamo pensare che da un oggetto schizzi fuori un pensiero. Ma che cosa significa ripensare questo? Significa per esempio ripensare, sì, il tema del sorgere, dello svilupparsi dell'uomo, il sorgere dello svilupparsi della creazione in generale, senza porre divari, anzi integrando l'uno nell'altro. Ma com'è possibile questo? Voglio dire, com'è possibile integrare nella evoluzione dell'uomo i suoi rapporti così oggettivi con il mondo, i rapporti di carattere biologico, no? I rapporti di carattere psicologico, culturale, eccetera, eccetera, e tutto questo interpretarli in una direzione che noi vorremmo personalistica. Ecco, questo per me è il grosso problema. Non si può affermare soltanto, bisogna spiegare, ma per spiegare bisogna anche evitare i salti che noi siamo troppo facilmente portati a fare. Il salto, per esempio, che io sentivo un po' quando si è parlato di natura come infrastruttura. Che cosa vuol dire infrastruttura? Ecco qui tre schemi possibili. L'uno, il processo, no, di questa autocostituzione dell'uomo e del mondo in senso deterministico. L'altro nel senso di un movimento condizionato eppure emergente dai condizionamenti. L'altro, ecco, adopera ancora un termine usato da Gerardi, la destinazione. La destinazione si deve ridurre a questi due possibili schemi precedenti. Per me è molto problematico e direi di no. E l'ultimo, finisco perché altrimenti faccio un'altra relazione, e questo, da questo quadro viene fuori il tema della responsabilità. Ecco dunque l'emergenza, ma la responsabilità non può essere ovviamente fondata e agganciata a una visione oggettuale o addirittura reificante, non può essere però neppure pensata in termini di soggetto o di soggettività, perché altrimenti ricadiamo inevitabilmente di questo, e noi siamo sempre minacciati anche dalla divisione tra il mere vorhandenes e l'esistenziale di Heidegger, eccetera, eccetera, no? Dunque come pensarla? Pensate questo, responsabilità significa affermare un qualcuno che risponde a uno al quale risponde di qualche cosa. Ebbene, tutto questo discorso, che ovviamente mi trova consenziente, ma mi fa sorgere questo problema. È possibile lasciare questo discorso della responsabilità in termini di responsabilità generale? O qui non si dovrebbe proprio mediare, attraverso tutta la impostazione del discorso precedente, il generale, in modo tale che il responsabilizzato, il chiamato alla responsabilità, sia davvero il singolo? Perché io non posso dire che è l'uomo responsabile, l'uomo non è responsabile, sono io il responsabile. Ecco, ma se sono io Come io posso evitare le secche dell'individualismo, in fondo, dell'autonomia assoluta, della indipendenza? Ecco, questo è il problema. Ma io credo che a questo problema si possa dare una risposta solo se si imposta tutto in maniera molto coerente sul superamento di quel divario tra soggetto e oggetto che noi affermiamo, a proposito del quale diciamo tante cose, ma io temo, non dico Gerardi, ma non so di altri, che l'abbiano ancora sufficientemente pensato e elaborato, così che i nostri discorsi finiscono sempre dopo aver dichiarato inizialmente e progettualmente la necessità di non andare su un doppio binario, finiscono poi col divaricarsi veramente in una duplicità che alla fine lascia irriconciliato il termine e dunque soltanto retoriche le affermazioni finali. Ho finito, grazie. Posso fare un intervento non da accademico, ma da parroco, direi, in questo contesto di cose dove io mi dichiaro incompetente o a livello semplicemente dei profani. Però, ecco, ragionando, in certo qual modo mi sono sentito tirato per i capelli a farlo dal discorso di Don Boff di adesso. Cioè, io mi domando, quanti di noi nella nostra catechesi, nel nostro modo di presentare e di ragionare sulla creazione, non presentiamo come la cosa più evidente di questo mondo la creazione in termini di causalità efficiente? Io mi sono svegliato molto tardi per rendermi ragione che proprio quella è una categoria assolutamente insufficiente. Però quanto sussiste quella categoria ancora nei moduli omiletici e catechistici che noi abbiamo per mano? Causalità efficiente vuol dire qui c'è la causa, lì c'è l'effetto. Capisco che la teologia manualistica, e forse rispetto a tutto quel che si è detto, occorrerebbe insomma parlarsi, intendersi più chiaro anche su certi limiti gravissimi della neoscolastica, insomma, no? Al riguardo, no? Che è quella però che è stata nei manuali della nostra recente formazione e che in moneta spicciola viene amministrata, no? Che è quella, per paura del panteismo, abbia forzato la comprensione della creazione in questi moduli, ripeto, di causalità efficiente. Ma è proprio questo che ha portato a annunciare, a divulgare in moneta spicciola un concetto di creazione, che è quello che trascina con sé tutti i limiti e i difetti di ciò che adesso noi riscopriamo. Analogamente, insomma, io ho sentito veramente anche come ispirato il discorso fatto su la attesa che la creazione ha della rivelazione del Figlio di Dio, eccetera, insomma, no? Discorso che noi qualche volta facciamo, ma in modo molto mistico, molto lontano, che non siamo capaci di tradurre in moduli catechistici, omiletici, molto. Ora, credo che per portare un autentico contributo alla situazione attuale e alla sensibilità attuale, certamente sono molto importanti le discussioni che stiamo facendo a livello accademico, però non possiamo non preoccuparci di una traduzione in moneta spicciola, in moduli catechetici che almeno tolgano certi limiti e certi inghippi. Ho detto, ragiono da parroco a questo livello e non insomma pretendo altro, no? Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Signore. Grillo. Confesso anch'io una generale incompetenza sul tema, ma volevo solo il chiarimento di due punti che non riguardano tanto lo svolgimento della struttura del discorso, che mi sembra chiaro, molto nitido, ma piuttosto due citazioni. Ecco, io ho qualche problema nel capire appieno in che modo Moltmann prima e poi Heidegger possano entrare come supporto di un discorso che sta in piedi certamente senza di loro e forse decisamente senza di loro. Per quanto riguarda Moltmann, la mia sensazione, e questo mi sembra emerga chiaramente dall'ultima delle citazioni, l'intenzione di Moltmann è di tenere insieme mondo moderno e tradizione della dottrina sulla creazione. E la necessità della reciproca conversione, che è stata citata e che più volte ricorre nel libro, è certamente uno dei nodi decisivi. La conversione delle scienze naturali da una parte, la conversione della teologia dall'altra. Il rigore dell'esposizione manifesta però una impostazione che certamente è diversa da quella di Moltmann, non tanto perché non tenga conto dell'esigenza, ma perché procede sicuramente su terreni che per Moltmann così sicuri certamente non sono. Per quanto riguarda invece la citazione di Heidegger sul tema dell'ethos, che è davvero decisivo, però anche in questo caso mi sembra che Heidegger proponga il discorso a livello di fondazione globale, nella lettera sull'umanismo, e però rinunciando a quell'orizzonte metafisico che è il fondamento invece di questa nostra relazione odierna. Quindi ho l'impressione che soprattutto su questa seconda citazione la scelta sia o si tiene la struttura, oppure, e quindi Heidegger al limite fa parte del campionario delle posizioni diverse se non contrarie, oppure si sceglie di mediare anche con Heidegger, però a quel punto certamente la certezza della impalcatura dogmatica certamente risente di qualche frizione, perché inevitabilmente non può presupporre quella metafisica su cui riposa in modo logico e coerente. Io parlo soprattutto, direi, mettendomi dall'esterno, dal punto di vista, direi, storico-religioso, nel mondo della storia delle religioni, e naturalmente sento un certo disagio perché questo modello biblico-cristiano è sembrato essere non plus ultra. Si è detto che questo modello ha plasmato, ha dato la possibilità all'uomo, ha creato questo, quell'altro, e senza, non si è tenuto conto di tutti i danni che ha creato anche questo modello biblico cristiano. Bisognerebbe sottolinearli una buona volta e non sempre dire adesso, in questi ultimi decenni, in quest'ultimo decennio si è scoperto che nel Genesi non si parla di dominio sul mondo, sulla creazione, ma si parla di così, di una contestualità, di una... In realtà fino a 20 anni fa si diceva che l'uomo è il re dell'universo, è lui che comanda. Allora che cos'è questa nostra teologia? Noi andiamo con i tempi? Quando domani cambierà un'altra volta la concezione? La concezione culturale, allora noi saremo pronti, i teologi soprattutto, perché io mi metto fuori, saranno pronti a dire: beh, sì, è vero, facciamo un altro salto di qualità, ma l'ecologia ha bisogno di un altro Dio, di un altro Dio. Io credo invece che dovremmo fare un discorso dove noi tiriamo in campo un po' tutto il discorso del rapporto Dio e mondo e creazione in maniera diversa, direi. Noi a giugno faremo appunto un convegno proprio sul rapporto Dio, creazione e mondo nelle religioni orientali, proprio per i teologi dell'ATI. Ecco, questo così anche faccio propaganda. A giugno a Brescia, dal 20-22 giugno. nelle regioni orientali. Perché? Perché vengono informati su una mentalità e una sensibilità diversa. Una sensibilità diversa. Venendo più da vicino ad alcune osservazioni, vorrei dire questo, che il relatore ha parlato molto di questo del rapporto del uomo-natura, dove l'uomo e natura non deve essere visto come soggetto e oggetto. In realtà poi dopo, a mio avviso, ricadeva sempre in quello schema, che l'uomo è il soggetto e la natura è l'oggetto. Mi sembra che erano buoni i principi, poi in realtà nella contestualità emergeva sempre di nuovo questa realtà. A un certo punto il relatore ha detto anche che soltanto l'uomo è a immagine di Dio. Non so se questo sia scritto nella Bibbia. Io direi che tutta la creazione è piuttosto immagine di Dio. Tutto è immagine di Dio. Cioè io mi sento vicino alla mentalità, vorrei portare un po' della sensibilità orientale e vorrei che, per esempio, ha scartato così in fretta, ha parlato subito di panteismo e subito rifiutato. Perché non ha parlato, per esempio, di panenteismo, dove tutto è nel divino, nell'assoluto, senza dover subito allora dichiarare eretico questo mondo? Cioè dobbiamo incominciare a pensare con altre categorie, se vogliamo veramente fare una riforma di questo nostro rapporto con la creazione e con il mondo, altrimenti inevitabilmente seguiremo la moda che verrà domani e che verrà dopodomani e noi cambieremo le categorie teologiche in nome della moda che verrà. Ecco, voi sapete, per ultimo, vuol dire che c'è una moda, anche io parlo di moda, come la New Age oggi, la grande sensibilità moderna della nuova religiosità, la New Age, dove si vede proprio il mondo proprio in rapporto come l'anima, scusate, Dio come l'anima del mondo, ma in una sintonia dove si dice che la materia è una vibrazione di elettroni e questa vibrazione di elettroni è come una danza divina, no? E questa è una sensibilità che viene avanti nella nuova religiosità. Bisognerebbe tener conto di tutto questo, a mio avviso. Proprio Moltmann ha saputo tener conto di questo, perché è stato uno dei primi che si è interessato anche della New Age e ha detto forse bisogna ripensare il nostro schema teologico del rapporto Dio-mondo anche in funzione di questa nuova religiosità. Ecco, io mi permetto di dire che è necessaria una riforma, direi, più radicale di questi contenuti, altrimenti i nostri slittamenti sono poco importanti e non hanno bisogno di grandi riflessioni. Grazie. Se non c'è nessuno. Gerardi risponde all'intervento. La maggior parte degli interventi sono interventi arricchenti, quindi non devo fare altro che ringraziare per i contributi che sono stati dati. È evidente che quando si cita un autore non è che si approva in blocco tutta il pensiero di quell'autore. A volte le citazioni sono semplicemente funzionali ad un discorso. Posso essere d'accordo che magari questo metodo non è sempre corretto. Il fatto che io faccia una citazione di Heidegger non significa che io debba riprendere tutto il pensiero di Heidegger, ma semplicemente mi sembrava interessante e importante per la riflessione che deve essere fatta in questo ambito riprendere quella valenza cosmica dell'etica. E Heidegger l'ha sottolineata, quindi non semplicemente una valenza, come dicevo, riferita alla coscienza, pur fondamentale. Perché a me sembra che il discorso fondamentale della crisi nel campo della bioetica vada inquadrato nel quadro più ampio, che è quello che io chiamo, forse con un termine improprio, della ecoetica, e cioè della realtà dell'ambiente, se vogliamo di quella realtà della natura intesa nel senso più ampio. Così pure per quanto riguarda Moltmann, che io ho più volte citato. L'ho più volte citato perché ritengo che la riflessione che Moltmann porta avanti in Dio nella creazione sia una delle riflessioni più stimolanti sulla tematica, anche se certamente non condivido tutti i passaggi o perlomeno tutti i possibili esiti della riflessione di Moltmann. Io non ho fatto per esempio riferimento a quello che è un concetto fondamentale di Moltmann, cioè il sabato come giorno del riposo e come il, direi quasi, il ritrarsi di Dio, no? Della sua creazione per contemplare. Ecco, questo è il sabato, il momento culminante della narrazione biblica. Ho dato un altro taglio. E nell'ultimo intervento, ecco, a me sembra che perlomeno una delle osservazioni fatte così sia molto discutibile. Dicendo discutibile non intendo dire che sia sbagliata, intendo appunto dire che sia discutibile. Cioè l'affermazione, ecco, dei danni del modello giudaico-cristiano all'ecologia. Sappiamo che era la tesi di Linguite, ecco, e forse aveva ragione, forse no, ma certamente danni ce ne sono stati, e danni ce ne sono e danni ce ne saranno. Credo però, ecco, che un riandare in modo serio, grazie a quelli che sono gli strumenti che oggi abbiamo del discorso biblico, permetta di superare tutta una serie di deviazioni, tutta una serie di guai che forse nel passato sono stati fatti. Perché? Perché questo discorso non veniva fatto. Perché la maggior parte del discorso della teologia della creazione non faceva riferimento al discorso biblico. Ecco, io ho cercato di impostare il discorso della creazione partendo proprio dalla realtà della storia. Ecco, la realtà della storia dell'alleanza. E sottolineando dunque quell'aspetto dell'alleanza che è fondamentale, nel quale si riscopre allora il ruolo del Dio creatore. L'ultima cosa che posso dire è, evidentemente non tutti i passaggi sono stati, hanno potuto essere sviluppati. La mia relazione scritta è circa il doppio di quello che qui ho detto, avendo già superato abbondantemente il tempo che mi era stato proposto. Evidentemente ho dovuto saltare una serie di passaggi, uno dei quali riguardava anche un ampliamento maggiore del riguardo all'agnosticismo, riguardo al panteismo, lo so. Quando poi all'inizio ho citato Giobbe, non l'ho citato così semplicemente come un ammenicolo, ma l'ho citato proprio pensandomi Giobbe, cioè dicendo, ecco, questa realtà, ecco, di fronte a questa realtà, che possiamo dire? Forse il nostro è un balbettare, è un, così, un individuare dei percorsi, è individuare degli snodi che bisogna in qualche modo affrontare. Quindi ringrazio Boff proprio delle sollecitazioni che ha dato, e sono d'accordo con lui, ecco, lì bisogna andare in quella...